Torniamo insieme nella maratona elettorale di Radio Città Fujiko e allora abbiamo una nuova corrispondenza dalla Calabria, che è l'unica regione che andava al voto. Al telefono con noi c'è Claudio Cordova, il giornalista del Dispaccio, che saluto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Allora, fino a questo momento, con pochissimi dati, abbiamo le proiezioni, diciamo gli exit poll, come potremmo giudicare le elezioni calabresi? Beh, allo stato attuale diciamo che siamo perfettamente in linea a quanto si pensava nelle settimane di campagna elettorale, ovvero sia un centrodestra in nettissimo vantaggio sul centrosinistra, che si è presentato tra le altre cose abbastanza frammentato, perché abbiamo nel centrodestra il candidato unico che è Roberto Chiudo, espressione di Forza Italia, ma a sua volta, seppur con qualche scricchiolio poi sanato, sostenuto anche da Fratelli d'Italia, anche dalla Lega, e poi invece il centrosinistra con il PD, che alla fine è andato sulla scienziata Amalia Bruni. Ma con due altre, diciamo, esperienze, liste di centrosinistra che ovviamente hanno tolto e toglieranno voti alla Bruni. Mi riferisco soprattutto all'ex sindaco di Napoli, ancora in carica ovviamente, Luigi De Magistris, anche Napoli è tornato al voto, e all'ex governatore Mario Oliverio, che raccoglierà verosimilmente percentuali più basse. Allo stato attuale abbiamo quindi Occhiuto in vantaggio, direi, siderale. Parliamo ovviamente di exit poll, gli ultimi lo danno addirittura sopra il 50%, con la Bruni attorno al, diciamo, 25-26%, e poi De Magistris che scende rispetto alla prima proiezione, perché adesso è attorno, è tra l'11 e il 15 circa, mentre addirittura nella prima, nel primo exit poll era dato vicinissimo alla Bruni, ma che è, anche così raccoglierebbe comunque un risultato assolutamente enorme per la sua compagine, probabilmente anche non solo per la sua figura, comunque ovviamente nota a livello nazionale, ma anche per le ultime vicissitudini che hanno interessato l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che è candidato al consiglio regionale proprio in una delle liste come capolista, certo. E infatti volevo proprio chiederti, visto che Mentana nella sua maratona ha parlato proprio di effetto Lucano, quindi nella lista ovviamente di De Magistris, quindi questo ci sarebbe stato, comunque le persone avrebbero votato anche come reazione alla sentenza di condanna Mimmo Lucano. Allo stato attuale gli poll ci dicono che De Magistris sta avendo un risultato più ampio, più alto, più consistente rispetto a quanto era indicato fin quando, diciamo, è stato possibile visionare e pubblicare i sondaggi. De Magistris era dato attorno al 5-6%, adesso sarebbe addirittura tra l'11 e il 15, quindi sarebbe certamente un dato importante. Non so quanto, certamente una componente riguarda il cosiddetto effetto Lucano, ma io credo che anche un po' nelle ultime settimane si sia ulteriormente sgonfiato l'appeal del PD e della candidata del PD, la dottoressa Bruni, che è ovviamente una personalità, diciamo una candidatura civica, non una personalità politica, che secondo me poi alla fine hanno fatto confluire tutta una serie di voti, ovviamente di estrazione di centrosinistra quantomeno, su quella che viene vista come oggettivamente una componente più militante, perché da qualsiasi parte la ti guardi, quella di De Magistris, con De Magistris stesso, con Lucano e con tutta una serie anche di esponenti politici locali, sindaci, consiglieri comunali, anche molto, diciamo, in vista e combattivi nelle rispettive realtà, ovviamente è considerata una entità più militante, e sappiamo bene che tendenzialmente l'elettorato di centrosinistra gradisce questo tipo di visione. Certo, ecco, ovviamente facendo sempre la premessa che poi bisognerà aspettare i dati reali, però ti vorrei chiedere un po' quali sono stati gli argomenti maggiori di questa campagna elettorale in Calabria e quali, a tuo avviso, quali tra questi argomenti ha fatto più breccia nell'elettorato? Ma Occhiuto è ovviamente, come dire, ha puntato molto sugli investimenti, sulle infrastrutture, sui soldi che arriveranno dal piano nazionale, dal recovery fund, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Ha un po', a mio avviso, ma questo lo fanno un po' tutti, ecco, scritto un libro dei sogni, no? Perché parlando di strade, per esempio, attualmente molto molto malandate, le ha, diciamo, ha promesso che diventassero sostanzialmente delle highway americane, statunitensi, quindi insomma. Ma questo ci sta nel gioco della propaganda. Quindi, se dovessi dire, comunque Occhiuto ha puntato molto sugli investimenti e sulla ripresa dell'economia. Non è mancata ovviamente la componente relativa all'immigrazione, anche perché la Calabria nelle ultime settimane è stata interessata da diversi sbarchi. Dal canto suo Amalia Bruni ha provato a parlare alla società civile sostanzialmente, quindi anche alle realtà culturali, incontri con i poli universitari, ha puntato molto sulla ricerca ovviamente e sui centri di ricerca che pure esistono in Calabria, questo ovviamente anche per la sua formazione. De Magistris infine ha un po', come dire, toccato un po' tutti questi argomenti, ma secondo me il tema principale su cui ha basato la sua campagna elettorale è il differenziarsi sostanzialmente da questi due candidati che lui ha sempre identificato come due facce della stessa medaglia. Sostanzialmente, in uno degli ultimi, diciamo, interventi comunicati di De Magistris lo ha detto chiaramente: non si attaccano mai perché sono uguali. Quindi diciamo che ha puntato molto sulla differenziazione. L'ultimo candidato, l'ex presidente della giunta regionale Mario Oliverio, che come ho detto raccoglierà certamente, a prescindere dagli exit poll, certamente cifre più basse, invece di fatto ha messo in campo una candidatura, come dire, di opposizione, direi anche quasi di astio nei confronti del PD. Lui, ex uomo forte del Partito Democratico, lui è stato presidente della giunta regionale due legislature fa sostanzialmente, poi si è tornati al voto con l'elezione di Iole Santelli, purtroppo poi deceduta dopo circa un anno di presidenza, e poi, diciamo, tutta una serie di dinamiche interne al PD hanno portato Oliverio allo scontro, e questa sua candidatura sostanzialmente è stata fatta quasi per nuocere al Partito Democratico sostanzialmente. Certo, Claudio, noi ti ringraziamo intanto per questa prima appunto panoramica sulle elezioni regionali in Calabria, grazie mille. Grazie a voi e buon lavoro.